Lusi, in passato l'ex tesoriere finito nello scandalo, ha versato 122.000 euro nel 2009 al sindaco di Firenze. Per che cosa? Per sostenerlo politicamente. Sta di fatto che, scrive Bechis, è strano e curioso che proprio Renzi abbia preso le distanze subito quando è emerso i contorni dello scandalo di Lusi, ha preso le distanze dallo stesso Lusi. Sta di fatto che nel 2009 fondi per 122.000 euro dall'ex cassiere della Margherita, ora indagato, finirono al candidato sindaco di Firenze. L'articolo lo trovate a pagina 13. Poi, che dire, io ho tralasciato, ma perché sono sconfinate le dediche, gli articoli, i ricordi per la scomparsa di Lucio Dalla, che trovate ovunque, la tragica scomparsa di uno dei più grandi cantautori italiani. Vi segnalo solo alcuni interventi. Renzo Arbore fa un ricordo sul Sole 24 Ore, caro amico di clarinetto, questo è il titolo. Ricorda il momento dell'incontro, lo guardai, riconobbi un bambinetto che mi toccava ogni tanto intrattenere quando da Bologna arrivava a Foggia la modista Ferrari. Lui era figlio di quella signora Ferrari che nel dopoguerra arrivava nelle case delle signore pugliesi con una grande valigia, si trascinava dietro un bimbo piccolo che divenne poi Lucio Dalla. Tutto il ricordo della carriera da parte di Renzo Arbore, che poi conclude: più di ogni altra cosa Lucio era un poeta. I grandi cantautori del Novecento, come De André, Gino Paoli, Lucio Dalla, non sono semplici parolieri, ma veri poeti che andrebbero studiati a scuola. Lucio, con le sue canzoni, faceva piccole operazioni di cultura anche quando sembravano canzonette. Sentiremo molto la sua mancanza. E come è accaduto ad altri grandi, come Totò, verrà scoperto e riscoperto tristemente solo dopo la sua morte. Ma comunque di Lucio Dalla trovate tantissimo, anche il Graffio di Iena. E vorrei lasciarvi con questo, pagina 3 della Stampa. Intimi. Ieri abbiamo scoperto che tutti i politici erano amici intimi di Lucio Dalla. 24 mattino. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Sono le 8:21. Allora vogliamo continuare a parlare anche oggi delle proteste contro l'alta velocità. E voglio salutare il governatore della Regione Piemonte, Roberto Cota, della Lega. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Senta, ieri lei, incontrando con altri, con il sindaco Fassino, presidente della provincia di Torino, il ministro Cancellieri, ha detto: si indaghi su dove arrivano i fondi per le persone che protestano. Lei cosa sospetta? Cioè, chi può... Io vedo quello che vedo. Cioè, innanzitutto buongiorno a tutti. Vedo che la stragrande maggioranza delle persone che fa queste proteste non è della Val di Susa. Poi vedo che queste persone hanno tanti soldi a disposizione. Nei mesi scorsi ho potuto notare che per esempio avevano delle maschere antigas sofisticatissime che costavano molto di più rispetto alle maschere antigas in dotazione alla polizia e ai carabinieri. Hanno strumenti informatici molto costosi, hanno avuto la possibilità di stare lì per mesi, insomma tanti soldi a disposizione. Allora, da dove arrivano questi soldi? Perché parliamoci chiaro, la TAV non è contro la Val di Susa, la TAV dà una prospettiva di sviluppo alla Val di Susa e a tutto il nostro territorio. Ovviamente la riflessione che faccio, 2 più 2, è che arrivano tutti da fuori, che sono pieni di soldi, e può essere che ci sia qualcuno contrario allo sviluppo del Piemonte e alla stessa Val di Susa che evidentemente li finanzia. Ma lei ha anche dei sospetti, voglio dire, ha detto indaghi. Non tocca a me fare queste cose, però evidentemente ci sono dei gruppi di potere e di interesse contrari a noi, al nostro territorio, che possono avere un grande interesse a dare questa immagine, a fermare la TAV sicuramente, e anche a dare questa immagine negativa. Sì, ma anche forze politiche, cioè gruppi politici, secondo lei, forze politiche? Ma secondo me, io andrei a cercare anche all'esterno, non all'estero, andrei a cercare anche lì. Dal punto di vista delle forze politiche, vabbè, c'è una certa ambiguità di alcuni, però le istituzioni e le forze politiche sul territorio, in linea di massima, a parte alcuni sono favorevoli alla realizzazione della TAV. però diciamo questa disponibilità di fondi sicuramente mi fa riflettere. Senta, di fronte alla protesta che dilaga e alla richiesta di dire fermiamoci per dialogare, lei la trova una posizione questa comprensibile oppure no, bisogna tirare dritto? Guardi, il dialogo è sempre una parola positiva, però bisogna vedere che cosa vuol dire utilizzare la parola dialogo. Allora, si è dialogato per 10 anni, cioè non è che non sappiamo, scopriamo oggi che bisogna fare la TAV. C'è stato un dialogo lungo 10 anni che ha portato alla costituzione di un osservatorio presieduto dall'architetto Virano. Questo dialogo ha portato ad un cambiamento del tracciato, tanto che oggi il tracciato possiamo dire che non ha sostanzialmente alcun impatto dal punto di vista ambientale, perché la stragrande maggioranza del tracciato, a parte la linea storica, che comunque è storica, corre all'interno della montagna. E dunque oggi perché si utilizza il termine dialogo? Si utilizza il termine dialogo strumentalmente per dire che quest'opera non si deve fare. E noi non possiamo essere il paese delle banane dove si parla per 10 anni, si discute e poi non si fa mai niente. Quindi dire che adesso bisogna fermarci vuol dire cedere, vuol dire non per la TAV, questo creerebbe danni gravissimi all'economia del nostro territorio e poi non sarebbe neanche produttivo dal punto di vista del contrasto alla violenza, perché allora questi possono pensare, ma allora avete visto, usando la violenza noi otteniamo... Sì, certo, blocchiamo la TAV per bloccare qualcos'altro. Però che effetto le fa da Presidente della Regione vedere una regione che per una parte, almeno la Val di Susa, è ampiamente militarizzata? Ma non mi fa un bel effetto. Innanzitutto io vorrei dirvi, sfrutto l'occasione, che la Val di Susa non è contro la TAV, cioè le immagini che si vedono in televisione sono immagini non corrispondenti, diciamo, alla realtà dal punto di vista delle forze in campo. La stragrande maggioranza dei cittadini valsusini è a favore della TAV. Non è vero che tutti i sindaci della Val di Susa sono contro la TAV. I sindaci dei comuni più importanti coinvolti dall'opera sono a favore della TAV. No, ma è chiaro che ora si fanno sentire quelli che sono contro, cioè è chiaro che... Sì, perché si è innestato un meccanismo di mediatico che rappresenta una realtà diversa e soprattutto ci sono questi qua che arrivano da fuori, i nemici della Val di Susa, ma scusi, ma secondo lei cosa c'entrano quelli che arrivano da Napoli con il pullman per la TAV, quelli che arrivano dagli altri paesi? No, ma è chiaro che si è cementato, certo, diciamo, qualcosa con ambienti antagonisti. Con la TAV, però le vorrei chiedere questo: lei è anche rappresentante di un partito, la Lega, che da sempre si batte per le autonomie, si batte a fianco di persone che difendono il proprio territorio. Ecco, escludendo i violenti, che ne pensa dei valsusini che invece dicono vogliamo tutelare il nostro territorio da leghisti? Lei che non prova un po' di empatia? No, io infatti sono assolutamente rispettoso e proprio per questo sono arrabbiatissimo di fronte allo sfruttamento chi abita quei territori, dello sfruttamento da parte di chi arriva da fuori e fa delle proteste che non c'entrano niente con l'opera. È proprio questa autonomista che mi fa reagire dicendo attenzione che qui c'è in atto uno sfruttamento da parte di chi vuole proprio danneggiare il territorio per motivazioni che non c'entrano con il territorio. E invece dal punto di vista delle preoccupazioni della gente, della nostra gente, dei valsusini, c'è stato questo osservatorio. Io sono stato nel passato un sostenitore dell'osservatorio, dell'esigenza del dialogo e ho condiviso anche la modifica del tracciato. Quindi oggi dico, e l'ho detto ieri, bisogna accelerare le opere di compensazione, cioè bisogna dare delle garanzie per quanto riguarda le opere di compensazione, che il territorio della Val di Susa effettivamente è un territorio che è stato dimenticato. che esce da anni di deindustrializzazione selvaggia. E quindi è giusto che si facciano quelle opere che potenziano la linea storica, sì, e cioè non si lasciano i pendolari quando c'è la alta velocità, la TAV, su dei carri bestiame per quando usano il treno, e che vengano fatte anche delle opere, magari piccole opere, perché non sono grandi opere, per migliorare le condizioni. Ma è chiaro, è il concetto delle compensazioni laddove si fa un'opera che ha un impatto su un territorio. Mi faccia fare un'ultima domanda, Presidente, sulla questione invece nazionale, perché ha sentito Berlusconi che ha detto grossa coalizione forse nel 2013, oggi la Padania titola ci aveva già pensato Mussolini, insomma siamo proprio ai minimi termini dei rapporti tra Lega e Berlusconi. Non siamo in un periodo in cui la democrazia è stata sospesa, questo governo Monti è proprio l'esempio di un meccanismo di sospensione della democrazia, delle forze politiche che fino al giorno prima si attaccavano, si accusavano reciprocamente, il giorno dopo hanno deciso di costituire un governo senza passare dalle elezioni, con questa immagine messa in campo salvifica del presidente Monti. Ma la grossa coalizione che ne pensa? Ma guardi, la grossa coalizione con che programma? Quello di spremere i cittadini come un limone, perché fino ad oggi noi non abbiamo visto di fronte alla crisi una politica di rilancio, abbiamo visto la politica del tasse, tasse, tasse. Quindi vedo grossa coalizione, grosso inciuccio. Ah, ecco. La ringrazio, Presidente. Grazie. Buona giornata, ovviamente, il governatore del Piemonte, Roberto Cota, della Lega. Questa è la sua visione su quello che sta succedendo in Piemonte, gli scontri e gli incidenti, le proteste contro la TAV. Noi dopo la pubblicità vogliamo tornare a parlare di un tema che purtroppo riguarda molti, molti italiani, quelli che ci finiscono in maniera molto negativa, il gioco d'azzardo, il gioco legale, quello delle slot machine, videogiochi, videopoker. Il ministro Riccardi ha detto è un qualcosa che danneggia molte famiglie, quindi andrebbe trattato come il fumo, e quindi almeno vietiamone la pubblicità sui mezzi di informazione. Che ne pensate? Perché è una cosa giusta secondo voi, oppure c'è dell'ipocrisia? In fondo lo Stato da questo sistema guadagna centinaia di milioni di euro, quindi è tutto legale, però non lo facciamo vedere, togliamone la pubblicità. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:36 minuti. Allora, vogliamo tornare a parlare di gioco d'azzardo, un tema che è tornato alla ribalta perché intanto le due cifre, tanto per capire, 76 miliardi di euro, questa è la stima di quanto gli italiani giocano nel gioco d'azzardo, quello legale ovviamente, videopoker, slot machine, lotto, schedine varie, gratta e vinci, chi più ne metta. Il ministro Riccardi due giorni fa ha detto basta, bisogna trattare questo come il fumo, un qualcosa che danneggia anche molte famiglie, quindi almeno dovrebbe esserne vietata la pubblicità di questo gioco d'azzardo legale nei mezzi di informazione. Il tema è interessante, ne vogliamo parlare con un ritorno al senatore Raffaele Lauro, che saluto del Popolo della Libertà. Buongiorno senatore. Buongiorno, buongiorno a tutti. È anche una vita, diciamo, da prefetto, e quindi probabilmente si è occupato anche materialmente. La commissaria antiusura. E commissaria antiusura. Saluto Massimo Passamonti, che è presidente della Federazione Sistema Gioco Italia. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È la federazione che riunisce 5.800 imprese del settore all'interno di Confindustria. Allora, io intanto, Presidente Passamonti, che ne pensa della proposta di Riccardi? È una proposta sensata? È una proposta, faccio io una provocazione, un po' qualcuno ha detto ipocrita, ma come lo Stato guadagna anche moltissimo, da ovviamente di gettito fiscale, da questo sistema del gioco d'azzardo, e poi però non si può far vedere in TV la pubblicità? Insomma, oltre che adesso ipocrita, non lo so, però insomma contraddittoria sicuramente, no? Rispetto a quello che lei dice. Poi però ci tenevo a fare una premessa rispetto alla presentazione che lei ha fatto. Quando si parla di gioco legale, questa associazione con i videopoker la ritengo insomma sbagliata e scorretta, nel senso i videopoker nell'accezione comune è diciamo uno dei simboli del gioco quando non era legale il gioco in Italia. Sì. Quindi insomma, questo ci tenevo a dirlo, perché sennò si confonde sempre questa cosa del di questa importante realtà che è il settore del gioco dal punto di vista industriale, ma anche dal punto di vista sociale, per quello che rappresenta anche nei suoi risvolti, diciamo, critici, e quello che era invece nel passato il gioco. Ne approfitto per dire, le rispondo anche sulla domanda rispetto al ministro Riccardi, che in Italia si è compiuta la più grande opera di legalizzazione del gioco, perché passare da 15 miliardi del 2000 ai 77 oltre, forse anche 78 del 2011, è stato possibile non soltanto perché si è aumentata l'offerta di prodotti di gioco, ma sicuramente perché si è riusciti a far emergere miliardi e miliardi, centinaia e centinaia di milioni allora ancora di lire, poi miliardi di euro di gioco illegale, rendendolo legale e quindi più sicuro e trasparente. Rispetto alla proposta di Riccardi, guardi, cioè, l'argomento è delicato, i primi a porci questo problema rispetto a come comunicare, quindi a promuovere un'attività legale e data in concessione dallo Stato, siamo stati noi stessi, stiamo lavorando in questo senso per darci e dare un contributo anche alla realizzazione di un codice di comportamento rispetto alla pubblicità, però così evocare situazioni un po' proibizionistiche, sì, insomma, come sul fumo. Ecco, tipo sul fumo, poi che facciamo? Parliamo di alcol, parliamo di... Cioè non le è piaciuto altri... diciamo l'accostamento all'idea al fumo? Guardi, primo non funziona, perché se no l'estensione del concetto non so dove ci porterà, no? Ripeto, faccio un passo indietro, insomma, pratiche, atteggiamenti un po' così alla Savonarola, un po' proibizionistici, sappiamo negli anni passati la storia economica e sociale di molti paesi insegnano che non ha portato a nulla, anzi ha fatto danni, perché ha fatto ripiombare nell'illegale tante tante situazioni. Ciò che ha fatto emergere, ciò che è stato fatto emergere nel legale. Però è vero che il sottosegretario dell'economia Polillo, per esempio, ha aperto un fronte di critica, ha detto attenzione, il gioco è la quinta industria italiana, però vorrei dal senatore Raffaele Lauro, che da anni si batte su questo tema per essere molto duro e rigoroso. Ecco, senatore, intanto che ne pensa lei della proposta Riccardi, se non c'è esagerazione nel modo di porsi? Certo, però un problema c'è di moltissime famiglie che finiscono sul lastrico, diciamolo chiaramente, per questa situazione. Senatore. Buongiorno, io volevo subito chiarire che non sono Savonarola e che non aspira ad essere bruciato vivo, e che la situazione è molto più complessa di quella che viene rappresentata. Innanzitutto la raccolta quest'anno arriverà ai 100 miliardi di euro, quindi mi permetto di correggere il dato. E comunque sì, quel 78 era l'anno scorso, diciamo, la stima è 100 esatto, miliardi. Quest'anno la proiezione dà sui 100 miliardi di euro. Guardi, ci sono due relazioni dell'antimafia che sono state approvate all'unanimità dal Senato, che certificano in maniera inequivocabile che il ragionamento che quanto più si legalizza il gioco, tanto più scompare il gioco illegale, è un ragionamento, se mi consente, infondato. Innanzitutto perché la legalizzazione del gioco non ha fatto scomparire il gioco illegale, anzi lo ha alimentato indirettamente. La criminalità organizzata usa lo stesso marketing del gioco legale per alimentare quello illegale. Ma esiste un problema di fondo, quello di rendere trasparente il gioco legale con norme che siano tali a monte, a valle, nei controlli, da non consentire le infiltrazioni della criminalità organizzata certificate già da oggi nel gioco legale. Ecco perché io saluto l'esordio delle commissioni giustizia e finanze che, col sostegno del governo, ieri mi ha dato conferma il ministro Riccardi, iniziano la discussione su provvedimenti ai quali potranno dare il loro contributo anche gli imprenditori del settore, affinché ci siano norme di trasparenza, ripeto, nelle concessioni sul territorio, affinché effettivamente ci sia una certezza che la criminalità organizzata sia confinata nel gioco illegale da perseguire su questo, senatore, io credo che nel momento in cui si vuol fare una cosa legale tutti ci battiamo perché sia fatta in modo legale, ci sono dei controinteressi, quindi se tutti hanno la volontà di collaborare vengono nelle commissioni parlamentari, diano un contributo alle norme che abbiamo già elaborate, magari integrandole e correggendole, e arriviamo ad una riforma del settore che garantisca reale trasparenza. Ma lei, di fronte al gioco legale, qual è la sua posizione? Ho detto che non è Savonarola, per l'appunto, sarebbe per un proibizionismo. Guardi, il mio problema non è abolire il gioco legale, renderlo trasparente a monte, a valle, e garantire la tutela dei minori in maniera assoluta e rigorosa, come avviene negli Stati Uniti, dei malati, cioè dei ludopatici, dichiarare la ludopatia malattia sociale e che sia abolita la pubblicità, sia confinata con delle regole ferree. Ah, quindi comunque la pubblicità, abolirla è uno dei punti. Guardi, io ho parlato ieri con Riccardi e ho mostrato proprio per tabulas come gli appeal pubblicitari sono degli appeal subliminali. Quando mi scusi, però senatore, situazione, c'è un po', il presidente Passamonte ha definito contraddittorio, io mi sono spinto a dire un pizzico di ipocrisia, cioè lo Stato guadagna molto da queste tasse, però guardi, non lo si fa vedere in pubblicità, cioè guardi, si fa ma non si dice, sembra un po', no? Guardi, c'è stato un errore di fondo. L'errore di fondo dei governi di centro-sinistra e di centro-destra, e in particolare del ministro Tremonti, che ho avversato quotidianamente, è stato quello di avere ampliato il mercato del gioco legale senza che ci fossero norme di garanzia. Il problema è che ora stiamo rincorrendo un mercato impazzito. Sì. Per quanto riguarda la pubblicità, guardi, la reazione popolare, io la registro sulla mia email www.raffaelelauro@chiocciola.it quotidianamente. Ieri a Roma c'è stata una manifestazione di giovani di un'associazione RES che contestava alcuni spot destinati alle scuole. Ogni giorno mi arrivano proposte di comitati che stanno sorgendo spontaneamente in tutto il paese e che preparano una manifestazione nazionale che faremo per sostenere il lavoro del Parlamento. Quindi io vorrei dire subito agli imprenditori che esiste oggi un'occasione, la sede parlamentare, sì, per quella discutere, cioè di dare un contributo insieme ai monopoli di Stato affinché venga varato una riforma organica che garantisca la trasparenza assoluta del gioco legale, che persegua pesantemente il gioco illegale, ma che garantisca i minori e i ludopatici con una norma imbattibile, quella che io ho richiamato nella sua trasmissione dell'altra volta, quella della Corte Suprema degli Stati Uniti, il risarcimento dei danni alle famiglie dei ludopatici da parte dei gestori. Non viene allontanato dalle sale giochi nei termini, i gestori devono pagare. Famiglie possono chiedere un risarcimento. È interessante, sentiamo dopo le informazioni sul traffico, su questo punto e anche sul tema della ludopatia, che è un problema sociale, certo, di molte famiglie che vanno a finire sul lastrico per il gioco legale. Il presidente Passamonte risponderà tra poco. Allora, presidente Passamonti, come detto, Federazione Sistema Giochi Italia, che ne pensa di questa proposta del senatore Lauro a dire uno finisce la ludopatia, i familiari possono rivalersi sul gestore se il gestore non l'ha allontanato, se non ha avuto comportamenti dissuasivi, diciamo? Ma guardi, intanto voglio dire anche su questo, cioè voglio approfittare per rispondere al senatore Lauro, che insomma confermo che non pensavo a lui, citando questi impeti di Savonarola, iconoclastici nei confronti del gioco. Anzi, ne approfitto per dire che io sono assolutamente d'accordo con la sua proposta, con il disegno di legge che ha depositato al Senato, che si avvia a essere discusso in Parlamento. Ricordo al senatore Lauro che noi come sistema di Confindustria siamo stati già e abbiamo sempre testimoniato la nostra presenza e il nostro contributo nei lavori parlamentari, andando anche alla Commissione Antimafia. Il senatore Lauro è stato presente all'audizione che ha avuto Confindustria in Commissione Antimafia. E ripeto, dal punto di vista dei controlli sul gioco, dal punto di vista della trasparenza sul gioco, dal punto di vista di tutto quello che può essere utile a rendere sempre più trasparente non soltanto le attività e le offerte di gioco, ma anche la filiera e la catena di controllo delle società che operano nel settore del gioco, io sono più d'accordo di Lauro. No, su questo argomento, perché è assolutamente necessario che, trattandosi di una materia delicata, tra l'altro data in concessione dallo Stato, ci sia assoluta trasparenza. Voglio anche sì ricordare al senatore che il settore del gioco, audito anche dalla Commissione Antimafia, ha avuto la possibilità di esporre, prima che a livello parlamentare ci si rendesse conto di questo, dei problemi legati alla sicurezza del gioco, soprattutto nel comparto dell'automatico. Noi abbiamo un settore di eccellenza nel nostro paese, rappresentato da un'industria dell'automatico, delle macchine da gioco, e sì, con la rappresentanza di questo settore, insieme alla rappresentanza dei concessionari e della rappresentanza dei noleggiatori, con le tre sigle che stanno dentro il sistema gioco di Confindustria, noi abbiamo presentato la settimana scorsa, una proposta all'amministrazione di Monopoli per rafforzare i sistemi di sicurezza e di controllo delle schede che sovrintendono i processi di gioco dentro le macchine. Cioè, dentro tutti i procedimenti per aumentare, per fare sì, tutto. Perché poi di queste cose si fanno tante chiacchiere, poi però non succede niente. Io ho molto rispetto delle attività parlamentari, ma voglio ricordare al senatore che in questi 10 anni la sovrapposizione di norme, di provvedimenti legislativi che è intervenuta a regolare il gioco, che è regolato dallo Stato, sì, ha consentito, questo magari sì, di mantenere sacche di illegalità. Sacche di illegalità, basti pensare, voi ve ne siete occupati anche su altri temi, penso per esempio alla rete di scommesse, di agenzie fisiche di scommesse in Italia che operano per conto di società straniere, che non hanno concessione, non hanno licenza, raccolgono ormai più di 3 miliardi di euro senza pagare un euro di tasse, senza avere nessun controllo, e magari quasi sempre accanto al concessionario che paga le tasse, sì, sta sotto tutti i controlli derivati dalla concessione, ed è sicuramente il danneggiato della situazione. No, ma sicuramente è un settore che diciamo va monitorato con molta attenzione, anche perché è un settore molto particolare. Mi lasci dare un attimo a due ascoltatori che ci hanno chiamato. Fulvio da Milano, buongiorno. Cioè, sul tema, tra l'altro, pubblicità del gioco legale. Fulvio, lei che ne pensa? Fulvio Zendrini, sono sempre occupato di comunicazione. Io credo che stiamo sviando però un po' la cosa, nel senso che è correttissimo quello che viene detto da entrambe le parti, che ci devono essere tutta una serie di regolamentazioni, sì, perché il gioco sia legale e venga fatto in maniera legale, eccetera. Ma qui il problema è il problema della sigaretta, il problema del vino. Cioè, un bicchiere di vino al giorno, come sappiamo, fa bene. 100 bicchieri di vino al giorno fanno male. Il problema fondamentale è che va fatta una campagna di sensibilizzazione contro l'eccesso, contro la patologia del gioco che disfa famiglie. Allora, nessuno vuol dire che non si debba giocare. L'attività ludica fa bene al cervello, fa bene alla socialità, fa bene, mette insieme, come un bicchiere di vino, esattamente. Certo, 2 litri di vino al giorno non fanno bene. Certo, il gioco online, per esempio, il fatto che si sia sviluppato in maniera enorme grazie a internet, la fenomenologia del gioco online, che non è controllabile né mai controllato, e che molto spesso i server risiedono all'estero, Sì, però Fulvio, un conto sono le campagne di sensibilizzazione, siamo tutti d'accordo, sono belle parole, però io ho paura sempre di uno Stato invece che vuole regolare, no? Ieri avevamo Stellino, lo definirebbe uno Stato etico, su questo senatore Lauro, è un po' uno Stato etico quello che vuol dire così va bene, così va male, cioè poi c'è il libero arbitrio purtroppo o per fortuna. No, senatore, non è così. Cioè, se io voglio giocarmi tutto lo stipendio, quello di mia moglie, dei miei parenti, purtroppo succedono queste cose, è inutile negarlo, succedono. Che si può fare? Cioè, deve intervenire lo Stato a limitare questo, senatore? Allora, la Limonti ha ragione in pieno quando dice che la responsabilità della mancata regolamentazione è dei governi e del Parlamento. Sono 3 anni e mezzo che io attacco l'omertà e il silenzio indifferente delle istituzioni. Ha ragione in pieno. Ora però, dopo tutta questa battaglia, siamo arrivati al dunque, quindi regolamentiamo, non come teme lei. Noi dobbiamo mettere regole ferree per la tutela dei minori. negli Stati Uniti, a Las Vegas, è vero, se è agenti vero. Della sicurezza scoprono un minore in una sala giochi, le sanzioni non possono essere È vero, lo dico per esperienza sono personale. Pesanti. Ero a Las Vegas e dopo aver chiesto, avevo 21 anni, quindi dopo aver chiesto dei soldi, nel giro di 3 secondi si è materializzato un agente che mi ha chiesto il passaporto per sapere l'età. Su questo ha ragione, senatore. Che io ho citato prima, guardi, è fondamentale, ci deve essere, è stata, diciamo, sancita dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, nel caso in cui un ludopatico non venga allontanato secondo le norme di tutela, il gestore diviene sul piano civile responsabile rispetto alla famiglia. Allora, su questo io mi devo fermare perché il tempo è finito, ma guardate, su questo tema torniamo, è una promessa. Ringrazio sia il senatore Lauro, che è stato ancora con noi del Popolo della Libertà, sia Massimo Passamonti, presidente della Federazione Sistema Gioco Italia. Che dire, ci torneremo, perché chissà se va avanti queste, vanno avanti chiaramente le proposte di legge, va avanti l'idea di Riccardi, del ministro Riccardi. Io saluto tutti da Elisabetta Fusconi, Viola Bottone, Alessandro Longoni in redazione. Eccolo qua, partito l'Alpino. Mi trovate su Twitter, @AlinoMilan, così come trovate @24Mattino su Twitter. A lunedì.